All'House of Bach si tiene una cena molto speciale, dove si discute delle prossime iniziative e si parla con i nuovi amici che ci vengono a trovare. Da questa tavola passa tutta la buona energia della città. Benvenuti anche a voi alla cena del regino. Ragazzi, bentornati alla cena dei regini! Ce l'ho come tutti anch'io, come disse Laura Pausini. altra settimana assieme, non distraetevi ragazzi, non distraetevi, perché voglio dire, Laura ci ha insegnato che bisogna fare così. Fai così, panda. Concerto degli Ice Cream e dei La Brand, serata bellissima assieme, di grande musica, grandi due gruppi bellissimi musicali che regini che si sono confrontati qui, hanno fatto una bellissima serata assieme. Concerto degli Ice Cream e della Brand, grandi band regine che si sono confrontate assieme, hanno fatto questo spettacolo quindi sul palco esterno dell'House, una bellissima serata. La dimostrazione tra l'altro che l'arte locale non ha nulla di invidiare ai grandi contesti, perché voglio dire, hanno fatto una musica molto bella, molto partecipata, anche in risposta dagli artisti regini stessi che sono venuti ad ascoltare questo connubio artistico, e quindi è stato molto molto bello. Bello? Sì. Che entusiasmo, però è stato veramente bello. Sì. io li devo dopare prima della altrimenti esagerano, però comunque la serata è andata bene. Presto anche i video online, la grande introduzione che ho fatto alla serata ancora una volta, quindi vedrete tutto online. Abbiamo fatto anche la festa del gatto. Il gatto inteso sia come animale domestico, sia come animale in senso lato appunto, sia come gatto e quindi rappresentante della razza felina, quindi una serata in cui le persone sono venute a coccolare questi gattini che cercavano casa, a conoscerli, a stare assieme. I ragazzini ci hanno giocato, li hanno un pochettino, come si dice, manipolati, spupazzati, e quindi è stata una serata tranquilla, carina, fuoco, fiamme nel senso vero, nel vero senso della parola, perché voglio, c'è stata anche Anila, la nostra grande giocoliera, che ha fatto uno spettacolo col fuoco. Ha dato fuoco ai gattini? No, non dire questo. Lo sai, è venuto in spazi separati, quindi i gattini sono sani e salvi, e quindi è stata una bella esperienza. Sì, è stata veramente brava, mi ha sorpreso, poi quando ha fatto ancora più da fuoco... Davvero? Sì, non me l'aspettavo. A un certo punto l'ho visto arrivare lì in mezzo al giardino con le sue tipo bolas infuocate. No, ci sono dei piccoli bambini che sono anche stati truccati. Il trucca bimbi, ma soprattutto il trucca bimbi ha fatto successo negli over 25 per un motivo che non si è spiegato. No, ma a me è per il ragazzino che ha voluto il trucco invece del gatto del corvo. Il famoso Egde si è messo a giocare a pallone e abbiamo urlato come si può giocare a pallone per sempre. È giusto che sia così. E poi ragazzi, serata, cinema, abbiamo rivisto Howard il Papero, film che ha sconvolto un po' tutti, perché comunque c'erano dei riferimenti un po' adulti che diciamo noi avevamo dimenticato. Non è proprio un film per bambini, Howard. Cioè, questo Howard aveva una vita, diciamo, sentimentale abbastanza accesa nel suo pianeta di origine, cosa che noi avevamo dimenticato, oppure non avevamo ben capito i tempi, e ci ha fatto riflettere, voglio dire, un film dell'86 con delle tematiche importanti, e bello, bello. Anche questa settimana, giovedì, altro film, altra storia da vedere assieme, e poi continueremo. Il venerdì eccezionalmente ce ne andiamo in spiaggia a fare il torneo di spada, quindi portiamo i guerrieri più potenti di Free Age of Camelot sulla spiaggia a sfidare le persone, i bagnanti, a terrorizzarli bonariamente ovviamente, e vedremo che succede. Immagina, bambino coi braccioli da una parte, guerriero spadato da un'altra, in armatura magari, in tunica, ci sta, vedi il bambino, quanto sarà bello insegnare a questi ragazzi. Possiamo dare anche la magia se si indossa l'armatura, perché fai il corriere dell'acqua, fai così e lanci uno schizzo di sudore che rimane per volere le persone. C'è fai allontanare le persone, Andrea, fai allontanare le persone. Giustamente, ragazzi, cosa. www.back.it per seguire questi ed altri appuntamenti. Noi salutiamo anche Marco, Domenico e Stefania, che erano alla festa bellissima a cui sono stato invitato l'altra sera, a cui ho messo la music. E adesso, a tal proposito, continuiamo con uno spazio musicale eccezionalmente. Loro ci verranno a trovare nelle prossime settimane. Sono i Modern Pinch con Toast Nights. Ascoltali. Passiamo all'angolo dell'ospite, una band veramente particolare, una band ancora, diciamo che sono venuti qui in fase beta, cioè sono ancora nella fase, tra l'altro in questi giorni stanno registrando il loro primissimo lavoro, i Maghi Merrino. L'abbiamo intervistati al loro primo concerto che hanno fatto proprio qui all'House. Vediamo come è andata a finire, ragazzi, cercate di capirci qualcosa perché è veramente dura. Guarda il video. Ragazzi, bentornati alla cena dei Regini. Siamo qui con una band nuova di zecca, di pacca, come si suol dire, i Maghi Merrino. Ragazzi, potete salutarmi tutti, c'è questo 2 secondi di saluti. Ragazzi, iniziamo a presentare il vostro progetto musicale in poche parole. Come si presenterebbero i Maghi Merrino? Ovviamente la parola al nostro direttore per le relazioni sociali, Vincenzo. Allora, come nascono i Maghi Merrino? No, E cosa? No. Il nostro progetto musicale. Il nostro, questo progetto musicale. Questo progetto musicale è un progetto senza, diciamo, carta, ecco, è nato un po' così. Senza carta. Senza carte, senza documenti. Lo posso dire io. È un progetto. Diamo allora al nostro secondo direttore per le relazioni sociali, Cristian Giarraff. Allora, il progetto dei Maghi Merrino nasce dalla voglia di fare musica con, ispirandosi, diciamo, ai lavori che fa il nostro caro amico Marco su YouTube, diciamo mettendo in musica qualcuna delle sue stupide idee che ha ogni giorno. Ma passiamo la parola al terzo direttore artistico, il PAC. Promosso sul palco, ringrazio, do la parola a Patrizio. Ok, tutto è nato praticamente dai video di Marco, che ha già una fama abbastanza grossa sul territorio nazionale. Ci ha fatto incontrare a me e a lui. Io quando avevo visto già alcuni suoi video, non sapevo neanche che abitasse a Messina. Quando lo incontrai scoprì. No, allora, di verità già avevo visto un video in cui lui cantava e disse, vabbè, avrà una band, pure perché era ben arrangiato il tutto. Conoscendolo, allora gli disse, ma tu hai una band? Lui disse, no, allora facciamo una band, gli dissi io. E qui è nato il tutto. Dopo un paio di mesi di rodaggio è uscito fuori quello che è esattamente la trasposizione dei video di Marco in musica, ovvero video molto in italiano, naturalmente musica in italiano, irriverente, sempre con un fondo però a volte puramente comico, ma altre volte con qualche idea quasi... Uno straccio di vita, possiamo chiamarlo? Uno straccio di vita. Uno spaccato della vita italiana, se così si potrebbe definire. Ragazzi, dove potervi trovare sul web? Diamo qualche riferimento? Non ancora, perché purtroppo voglio aprire la band, cioè voglio aprire al pubblico la band quando saremo pronti già col primo CD in mano, quindi boom, tutto. Stiamo dando piccole informazioni, infatti... Se la stanno rubando. Non so se hai notato. No, nel gruppo della mia pagina di fan del canale c'è gente che ha trovato la copertina di oggi e ha detto: guardate, il gruppo di Marco si chiama Chimerrino. Quindi c'è qualche spoiler in giro, però non ancora riferimenti, perché ti ho detto: vogliamo aprire pagina, sito e lanciare il CD tutto in un giorno solo, quando arriva, quando il tempo sarà giusto. Bellissimo, mi ricorda molto l'Uomo Tigre. Ma il tema di questa serata richiama anche altre ere storiche. C'è un periodo storico nel quale voi, come singoli personaggi, avreste preferito vivere rispetto all'attuale? Guarda, passo la parola al nostro esperto di storia d'arte, Andrea Magrofuoco. L'esperto di storia, soprattutto di arte, sì. Io, esperto di storia e arte, una domanda del genere posso parlare per me. Almeno, poi non so se vi trovate d'accordo. La domanda è in che periodo storico, almeno. Io penso che qualche idea comune c'è. Io sarei voluto nascere negli anni 50, a metà del secolo, perché c'è stata buona parte di storia in questo secolo e anche la musica era molto ok, diciamo. Molto in auge. Sì, ecco, c'erano anche gusti differenti rispetto a quelli di ora. E quindi io in questo periodo, anche musicalmente, loro, poi ognuno ha la sua. Negli anni 50? Io credo che questa era la perfezione per un gruppo come il nostro. Perché in atto saremmo crocifissi. Questa domanda è molto più egocentrica, non pensare a noi, pensa a te. Ah, e io direi questo, perché non posso vedere anno migliore di questo, se non per le nostre teste di si possono dire parolacce? Di capperi. Per le nostre teste di capperi. Cioè, ma che cazzo fa? Scusa! Io mi ritrovo abbastanza bene, per quanto amo molte aree storiche, questa è abbastanza perfetta. Ora passiamo la parola al nostro direttore artistico e generale di cultura. In che periodo? Allora, non so quando è stato, se qualcuno lo sa me lo dica, ma quando è stato inventato il pane? Perché il pane. Ok, voglio essere nato, quando è nato il pane, così arrivo, lo taglio, gli metto un ingrediente dentro e faccio... Sto Bob inventavo pani, io il pane farcito. E gli spacco il culo. Pensa che è brutto essere l'inventore... Vuoi finirla qua la storia? No, voglio far capire la mole di questa cosa. Reinventare il pane. Però vabbè, dai. dopo questa parentesi commovente. Quindi tornare indietro per appropriarti dell'invenzione del panino. Sì, voglio una bizzarra per il secondo dopo dicendo mi metto una fetta di prosciutto di capra ammazzata da pane farcito. Fantastico. Perché non lo facciamo? Cioè, torniamo indietro. Ma non si può. Come non si può? Da quando? Pensateci. Pensateci. Allora volevo... Volevo nascere nel 2800. Io pure, si può, vale anche il futuro. A me sarebbe piaciuto più avanti nel futuro, tipo nel 3000. Perché mi piacciono le cose tipo tecnologiche, perciò... Che cazzo ride? Fa ridere, mi io personalmente nel medioevo, proprio in pieno medioevo, dove lunghi barba. Sì. Medioevo tira tantissimo. Ma tu non sì, pensi sì, quando sì. Scegli tipo se mi viene mal di denti con la roccia per dire. Ma guarda. A queste no, cose. Vabbè, io il dolore non dico che mi piace perché non è fare, però amo sopportare, amo sfidare il dolore. Quindi non è quello, però la purezza della vita, capito? Della natura. Ma le rispondo a te piace il panino imbottito? Marco, no. Che cosa volete? Marco, che band hai creato? Con chi? No, guarda, c'è questa risposta, questa domanda è reciproca, una poco. Ovviamente, ragazzi, invece il presente storico, l'attuale presente italiano, è segnato comunque da una diffusa decadenza, si può dire, è abbastanza palese. Per un musicista questo cosa significa e in che modo il musicista può reagirne? Voglio passare la parola al nostro esperto di reazioni del pubblico a un pubblico musicale in decadenza, Cristian Giaraffo. Allora, la questione è complicata secondo me, perché, allora, un punto di vista economico in deficit di certo non aiuta alla diffusione musicale, quindi si va incontro sempre a disagi dovuti magari a mancata comprensione sul livello dei pagamenti, anche se non è bello. Ma guarda, ma anche quello culturale. Quello culturale in secondo luogo, perché senza la moneta la cultura non può esistere. Anche se ci fosse la moneta, secondo me, sì, senza dubbio, però non è aperta al nuovo. Dico, gli screzi nascono sempre per quel punto di vista, anche se l'economia che comunque segna il discorso. Esatto, magari si va alla ricerca di musica più facile al giorno d'oggi, in questo senso, che vende di più, ecco. Maledetti screzi. Vedete che però non scherzando. Voi avete un modo per reagire alla decadenza da musicisti? No. E ci sguazza. Dimenticarsi dei soldi, farlo solo per passione, sì. Mettersi l'anima in pace. Aspettando tempi migliori, io dico che è tutta un'altalena, ci sono aspettative. Quando moriremo i nostri ora siamo nei tempi bui, ci saranno di nuovi tempi d'oro, speriamo di essere così. È molto italiano questo ragionamento, cioè andare avanti. Ragazzi, la domanda che faccio a tutti i miei ospiti, quella finale, i maghi Merrino, sindaci per un giorno di una città italiana, poi voi potete alla fine immaginarvi sindaci. Non so cosa... Qual è le prime direttive che attuereste subito per migliorare la situazione? Allora, siccome a Messina, io parliamo di situazione Messina e Reggio Calabria, nella città mia di Andrea e di Christian il sindaco ha fatto diventare una moda vestirsi con gli stessi vestiti e entrare al municipio senza le scarpe, quindi come primo provvedimento vestirsi. Secondo provvedimento un'emergenza nudismo. Sì, ma no, più lui vuole emulare Gesù, io penso. Vuole emulare Gesù. Il nostro sindaco, infatti, sai, è buddista, però... Poi Gesù odiava i ponti. Gesù odiava i ponti, infatti è contro il ponte che divide le nostre due città. Quello che potrebbe risollevare l'economia del turismo, sì, quello lì. E qua magari si collega al deficit... È uno screzio questo. Verso di noi, Guarda... passo la parola ai Reggio Calabresi. Il Reggio Calabresi. Reggio Calabresi. Di cosa stiamo parlando? Se fossi sindaco. Ok, se fossi sindaco di una città cosa farei? Allora, se io fossi sindaco di una città, direi, sarebbe meglio che non divenissi mai un sindaco di alcuna città. Ipotizziamo. Mi danno le chiavi di Palazzo San Giorgio, cioè, sindaci Maghi Merrino. Ecco, sì, non saprei davvero dove iniziare, ci sono così tante cose che vedo sbagliate. E così tante cose che vedo anche più sbagliate che vorrei sistemare, giusto vedo davvero poco, quindi non saprei. Un punto da cui iniziare. Sì, non saprei neanche trovare un punto al momento. Per esempio, eliminerei Marco Merrino per iniziare. Ha parlato della città Marco Merrino. Esatto. Non puoi entrare. Perché no? Non può. Quando entra, si mangia le mie cose, ma chi ti dà questo permesso? Si mangia le mie cose. Fischio di notte. Fischio di notte. Mi spacca i cassi. Il bandare Marco Merrino è un primo. Sì, è il primo, la prima cosa delle idee. No, io ragazzi, ragazzi. Direttive. Allora, no, io una sola cosa farei. Io parlo sempre di Messina perché come loro sono anch'io di Messina. Però la prima cosa è cercare, fare un promemoria gigantesco sulla porta del municipio con scritto che la città non finisce al Viale Europa e all'Annunziata, praticamente una parte ristrettissima della città. Io sto per esempio in periferia, zero, non esistiamo, zero. Fare un gigantesco promemoria e vestirsi, come dice lui, perché è un problema di fondo, no? Ma davvero sono freddo, è necessario. Siete così nudi a Messina. No, no, dai, le infradito piace. Per Clinton 2 lo esatto. Bello, quindi diciamo rivalorizzare le periferie. Cioè, sì, tu dici no, ricordarle le periferie. Far ricordare le periferie. Andiamo dal filosofo. Che mi sa che ha qualcosa da dire. Io personalmente non lo volevo sindaco di Reggio, rispondo per la seconda volta a questa domanda, perché vabbè, come sindaco in versione Maghi Merrino darei molto spazio a inizierei a delegiferare, se si dice, se esiste questa, a togliere leggi. Ringraziamo per averci dedicato qualche minuto della loro vita. Noi torniamo tra poco con la cena. Torniamo tra poco alla cena dei Regini. A tra poco alla cena dei Regini dopo un piccolo spazio musicale. En l'homme, la faute à ce qu'il déforme, mais il n'a pas toujours tort. Je persiste donc dans mon effort à pas voir tout noir, et peut-être un jour à croire qu'il y aura quelqu'un à apprécier comme il vient. Peut-être que ce sera une femme, mais pas celle qui se fond d'âme. J'aurais bien trop peur que ce pion de mon malheur. Pourquoi je n'y crois pas en toi et moi? Pourquoi j'y crois pas? Tout à part, j'ai craché sur mes habitudes pour découvrir ce qui se passe ce soir. J'ai pour moi la bonne fortune. La richesse, ça t'apporte quoi? Mais le bonheur et la plénitude de ma personne, ma vie c'est ça. Sensible à des sentiments, c'est un peu ne plus être transparent aux yeux de l'autre, en plus de soi. Et encore faut-il avoir la foi. Tant d'années de déception, tant d'années de contradiction. Comment faire pour encore quoi? Que tout le monde n'est peut-être pas con. Se dire qu'il est